America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Siamo sempre in un momento delicato, l'Italia che cerca di rimettersi in carreggiata, l'Europa pure preoccupazioni sul fronte della crescita, guardando in avanti. Ebbene, che succede? Che ho scoperto che proprio in questi giorni a New York un gruppo italiano invece è venuto non soltanto per aprire un nuovo punto di vendita, ma addirittura per fare un investimento in una fabbrica. Sto parlando della Marazzi, che è il principale produttore di piastrelle in Italia. Ho con me i microfoni di America 24 Maurizio Piglione, amministratore delegato della Marazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ma allora, scusi, intanto una domanda a bruciapelo. Sembra che tutto stia andando un po' a catafascio e voi venite qui e investite dei soldi. Siete pazzi? Ma speriamo che non sia così. Noi abbiamo un nostro programma di internazionalizzazione. Lo stiamo proseguendo su molti paesi e l'America per noi è ormai da 30 anni, perché Marazzi in America dall'82 è un mercato di riferimento. Ecco, ovviamente lo dicevo in senso non soltanto amichevole, ma provocatorio al contrario, e cioè che secondo me è fondamentale dimostrare non soltanto all'Italia ma al resto del mondo che il nostro paese ha delle linee di resistenza forti, e dunque voi siete una di quelle tipiche aziende, credo, a cui ha fatto riferimento il presidente Barack Obama. Ero a Cannes con lui, ha detto l'Italia ha una struttura di aziende, di imprese medio-grandi che è l'invidia del resto del mondo. E dunque questa linea di resistenza c'è, sentite di poterla tenere. Ci parli un po' non soltanto da amministratore delegato della Marazzi, ma da voce un po' dell'industria italiana. Ma intanto ci sentiamo molto confidenti del Made in Italy e della nostra capacità di disegnare, di produrre, di innovare la tecnologia. E in più parlano i fatti. Nel recente passato, dal 2006 al 2011, il mercato americano delle piastrelle si è quasi dimezzato. Noi, nello stesso periodo, abbiamo raddoppiato la quota di mercato proprio perché eravamo produttori locali americani. Quindi avete fatto una scelta di investimento diretto per cercare di avere una presenza qui, ma ci sono degli elementi contingenti, cioè il vostro settore è anche un settore che ha ad alto costo per muovere, diciamo, il prodotto, o sbaglio? Sì, è vero, la chiave della nostra internazionalizzazione è stata di diventare locale, perché il modello tradizionale dell'export nella ceramica, per ragioni di costo del trasporto e per ragioni di crescita dei produttori locali, funziona sempre meno. Nel momento in cui diventi locale, porti una grande competenza italiana, ma ti adatti anche ai gusti, alla capacità di spesa, alle consuetudini dei mercati in cui vai a vivere. Questa è la nostra chiave di sviluppo negli Stati Uniti, che recenti investimenti vogliono proseguire. Quanto avete investito adesso in America? Nell'ultimo anno abbiamo investito circa 25 milioni di dollari tra la nuova linea che è partita in luglio scorso in Texas e una rete di 6 distributori che abbiamo acquisito nel sud-ovest degli Stati Uniti. E il vostro impianto produttivo come funziona in Texas? Cos'è, un forno? In Texas abbiamo 2 stabilimenti più un altro in Alabama. Noi li chiamiamo forni, in realtà sono dei reparti molto complessi che vanno dalla preparazione fino alla decorazione, alla cottura e poi alla scelta del materiale ceramico. Ecco, quanta gente occupate qui negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti sono circa 750 persone, di cui un centinaio lavorano nella nostra rete distributiva monomarca. Il vostro fatturato sfiora, insomma, si avvicina ai 900 milioni di euro, 820 milioni di euro se non sbaglio. Avete avuto un ritmo di crescita buono? Prevedete che la crescita del vostro settore possa andare avanti? Perché devo dire la verità, non soltanto l'economia in genere non va bene, ma il settore immobiliare in particolare non va bene, continua a dare segnali un po' di difficoltà. Qual è la vostra prospettiva? Perché voi state facendo un grosso commitment, un vostro impegno, un investimento di 25 milioni di dollari, quindi ci credete? Degli 820 milioni circa il 22% viene venduto negli Stati Uniti. Come ripeto, il mercato immobiliare statunitense a partire dal 2007 è crollato e ancora oggi, per quanto all'inizio di quest'anno avesse dato qualche segnale di crescita, rimane sostanzialmente piatto. Noi pensiamo di poter, continuando con questa politica di innovazione e di efficienza, di poter continuare in questa positiva crescita dei nostri fatturati che è avvenuta negli anni scorsi. Senta, e lei come arriva alla Marazzi? La Marazzi è un'impresa familiare, avete dei fondi stranieri, avete la Permira, un grosso fondo americano, avete la PEP, un fondo italiano, il 51% è della famiglia Marazzi, Filippo Marazzi è il presidente, e lei è un manager non di famiglia. Quindi, secondo lei, questo è un modello in cui, dovendo pensare out of the box in Italia, dovendo pensare al nostro futuro, perché abbiamo un po' questa coda di entusiasmo, no? Con questo nuovo governo che si è ormai insediato e che deve ricostruirci, che questo possa essere un modello anche per molte altre piccole e medie imprese? Ma io credo sicuramente di sì, perché la partnership tra la famiglia e i private equity, Permira e PEP, funziona proprio nello sviluppo che sta dando alla nostra internazionalizzazione. E quindi è un processo, secondo me, che potrebbe essere sicuramente di beneficio a moltissime aziende. Aggiungo poi che in molte aziende italiane, dove ci sono sicuramente dei temi di tipo per esempio generazionale o familiare, la presenza di alcuni manager professionisti sicuramente aiuta anche questi processi e quindi la stabilità. Quindi secondo me è un modello questo che può essere tranquillamente portato in vari settori, potrebbe essere anche un modo di valorizzare certe attività italiane. Quali sono le nuove frontiere della ceramica? Ho sentito che sono dei prodotti per esempio termici che consentono di tenere molto il calore. Ci può dare un'idea di come possiamo immaginare la piastrella del futuro? Le tendenze che mi sembrano più chiare sono quelle della sostenibilità ecologica, che sia di processo, nel senso che per esempio nei nostri impianti noi ricicliamo completamente e non abbiamo scarti di produzione, sia di prodotto per le caratteristiche della ceramica. L'applicazione che anche negli Stati Uniti ho visto sta prendendo sempre più piede è quella per esempio delle facciate ventilate, che sono dei veri e propri cappotti che avvolgono gli edifici, creando un isolamento termico sia dal caldo sia dal freddo e quindi portando a un forte risparmio energetico, oltre a una riqualificazione anche estetica dell'edificio stesso. Qual è la piastrella che vende meglio in America? Allora, da un punto di vista quantitativo, sono le piastrelle che noi produciamo qui localmente. Abbiamo delle quantità vendute per serie che sono veramente impressionanti. Perché una su tre in America la vendete voi? Una su tre delle piastrelle prodotte in America è fatta da noi Marazzi. Però al netto. Però c'è ancora un'importazione da vari paesi del mondo. Noi come vendita abbiamo una quota di circa l'11% sul mercato americano. Poi la nostra showroom di New York è dedicata invece a quel mercato high-end che desidera il design, la produzione made in Italy e che viene utilizzato moltissimo da architetti e progettisti. Allora, tanto è vero che abbiamo aperto all'interno del design district. Ci dica qual è allora la piastrella più lussuosa, quella più straordinaria? Quella più straordinaria citerei la Soho, che è una piastrella tridimensionale che è stata disegnata e prodotta da Marazzi e che proprio qualche mese fa ha avuto una menzione d'onore all'interno del Compasso d'Oro ed è la prima piastrella che viene messa nell'eccellenza del Made in Italy a livello di design. Ma tridimensionale cosa vuol dire? Vuol dire che oltre alle due dimensioni della creazione ha anche un gioco di profondità che la rende veramente unica. Salutiamo il dottor Piglione, un bocconiano, i bocconiani di questi tempi vanno per la maggiore. Lei ha mica studiato con Mario Monti? Ho fatto la tesi con lui. Vabbè, ci racconti di Mario Monti, com'è stato studiare con lui? Penso che sarà inflessibile come lo era qualche anno fa quando ho fatto la tesi con lui, quindi è la persona giusta in questo momento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jeff Magnum, meglio noto come il leader della band indie rock Neutral Milk Hotel, ha annunciato le date del suo prossimo tour europeo e americano. Il musicista della Louisiana farà tappa a New York il 20 gennaio, se siete da queste parti potrete vederlo, e dunque di Magnum, In the Airplane Over the Sea. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly. from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. That sounds from the street. There are lights in the clouds and his ghost all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!